Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. I dati sulla occupazione, o meglio, disoccupazione, a livello sia europeo che italiano. Va detto subito che la Germania invece ha conosciuto un dato in controtendenza, ossia un calo record della disoccupazione. E questa è una buona notizia per la Germania. Noi invece viaggiamo su altri binari quando si tratta di occupati, purtroppo lo sappiamo, ne parleremo più avanti. Di nuovo la conferma dei dati Istat, un nuovo record a dicembre nella disoccupazione giovanile in Italia, il 29%, siamo ai massimi dal 2004, era il 28,9%, siamo al 29%. La disoccupazione comunque è stabile all'8,6% nel mese di dicembre. Cala però anche il numero di persone che cercano un lavoro perché smettono di cercarlo. Detto questo, dicevo, il ministro Sacconi commenta il dato dicendo il mercato si conferma stabile, che è un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda di come lo si voglia vedere. Parleremo di questo nella seconda ora del programma. In apertura toccheremo i temi emersi dall'incontro di Davos. Nel frattempo avremmo voluto seguirlo anche meglio, probabilmente c'era l'Egitto, c'erano i temi politici di casa nostra, il federalismo, la bozza dei comuni, poi ieri questa apertura bipartisan di Berlusconi per tornare a far crescere l'economia italiana su ritmi più europei. Insomma, è successo un po' di tutto, ma si è parlato anche d'Italia, oltre che di euro e di tenuta dei mercati a Davos, e faremo il punto con chi ha partecipato a queste sedute e sessioni che sono sempre a porte chiuse, per cui è importante anche poi parlare con chi vi era. I mercati oggi come vanno? Bene, bene in tutta Europa, particolarmente bene poi a Milano. Milano guadagna il 2%, invece Parigi l'1,70%, Francoforte l'1,5%, Londra l'1,6%. Di rialzo l'America allo 0,80%, l'euro è di nuovo forte a 1,38%, l'effetto Egitto è scomparso dai mercati, perlomeno sul fronte valutario siamo a 1,38% in questo momento, quindi netto rafforzamento. Devo dire che è scomparso anche su altri fronti, il petrolio addirittura in calo a New York dopo aver toccato quasi $92, è tornato a 91,3%, in calo di un punto percentuale. Anche qui attenzione, il petrolio 91 è forte, lo diciamo da giorni, ma non è la prima volta che ha 91, anzi è rimasto in questi mesi spesso tra 89, 90, 91 senza che vi fosse alcuna sommossa in Egitto. Tra l'altro è regolare il transito delle navi sul canale di Suez, per cui il grosso timore, ossia il petrolio che non quello che arriva dall'Egitto, l'Egitto è un importatore netto ormai di petrolio, ma quello che transita attraverso l'Egitto continua a transitare regolarmente, ossia 56 navi a metà giornata contro una media di 50 navi, quindi addirittura un dato di transito superiore alle attese. E appunto il petrolio ne prende atto. Ancora per i casi di casa nostra ci occuperemo di dati auto sulle immatricolazioni più avanti, e avremo anche un approfondimento che riguarda il mondo del trasporto. E come sempre la borsa, volete sapere i titoli, ve li do e poi passiamo alle notizie in breve. Il peggiore è Monte dei Paschi, che perde 2,15%, e il Banco Popolare lo 0,70%. Oggi le banche non è che brillino, Unicredit più 0,70%, segnaliamo, Popolare di Milano più 0,90%. Chi va molto bene? Buzzi Unicem più 5,3%, Azimut più 4,2%, Eni molto forte oggi più 4%, Saipem più 3,90%, Generali più 3,30%, A2A più 3,30%, quindi energetici soprattutto ma anche costruzioni, Autogrill più 2,80%, Campari più 2,70%, come Mediolanum e Telecom Italia, il 2,3% lo guadagna Exor, Snam Rete Gas, il 2% è il rialzo di Enel e di Tods ma anche di Fiat, e poi il migliore dei bancari che è Intesa San Paolo, guadagna il 2%, e poi Mediobanca più 1,80%, Fiat Industrial, ossia camion e trattori, più 1,60%. L'ultima cifra, come sempre, è quella per i vostri sms, 349-238-6666, le notizie in breve. Che cosa succede? Fai cantare il gallo. No, attenzione. Un attimo con il gallo. Andiamo avanti con le notizie. Prima di arrivare all'Egitto e a Davos, dicevamo del mercato petrolifero con il petrolio in calo 91,3 dollari al barile. Strauss-Kahn, in merito all'Egitto, però, ha detto: Strauss-Kahn è il numero uno, è il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. Ha detto: siamo pronti a assicurare e a sostenere il rilancio dell'economia egiziana. Nel giorno in cui, però, anche Standard & Poor's ha abbassato il voto sul debito egiziano. E facciamo un po' arrabbiare gli ascoltatori. Ieri lo abbiamo fatto parlando di evasione fiscale. E adesso lo facciamo sui bonus. Sapete che ho un nostro chiodo fisso, i bonus dei banchieri, soprattutto quelli anglosassoni, soprattutto quelli di Wall Street e della City di Londra, i monatti, quelli che hanno impestato il sistema con i prodotti tossici, che prima ci hanno guadagnato, poi li hanno sparsi ovunque. Allora, dopo due anni senza premi, a noi non risulta, comunque leggiamo quanto scrive oggi il Wall Street Journal. Dopo due anni senza premi, i numeri uno dei maggiori istituti bancari inglesi hanno segnalato di essere pronti a un'inversione di tendenza. Non avevamo dubbi. Allora, Stephen Hester, numero uno di Royal Bank of Scotland. Royal Bank of Scotland è stata salvata di fatto, nazionalizzata dallo Stato britannico, che ci ha messo dentro 54 miliardi di euro, cioè tre manovre finanziarie britanniche per salvare una singola banca. E infatti adesso tutto l'83% lo Stato britannico della Royal Bank of Scotland. Ebbene, lui, numero uno, Stephen Hester, dovrebbe ricevere quest'anno un bonus di 4 milioni di dollari. Io non so, resto sorpreso, anche perché in Inghilterra il senso civico è un po' più alto che qui, e mi attenderei moltissimi controlli, visto che appunto gli inglesi hanno pagato di tasca loro l'83% della Royal Bank of Scotland. In un mondo normale prima ridai i soldi agli inglesi e poi ti dai i bonus, ma forse capisco male io. Così come l'amministratore legato di Barclays, Robert Diamond, mitico, anche lui 3 milioni e mezzo di sterline, che sono circa 2 milioni e 900 mila euro. L'amministratore delegato uscente di HSBC, Michael Geoghegan, dovrebbe ricevere un bonus da 4 milioni e 300 mila sterline, anche qui sui 3 milioni e 4. No. Poi sono casi diversi, perché BlackRock, che è il fondo comune di investimento più forte, di private equity più forte, dovrebbe essere più forte al mondo, più grande al mondo, lì però non è stato salvato, non ha creato la crisi, è un fondo di private equity. Segnaliamo solo che il numero uno, Lawrence Flink, prenderà quest'anno 13 milioni di dollari tra titoli e opzioni. Al presidente Robert Capito è stato riconosciuto un bonus in azione di 9,9 milioni di dollari. Capito? Sì, capito. Capito bene. Capito con la K, comunque. Ma non è ancora scritto sui muri. Ah, meglio buttare a ridere, sennò ci facciamo venire l'ulcera oggi. La disoccupazione nell'area euro, vi do il dato, poi ne parliamo più avanti. Livelli record, alla faccia di chi invece è già sui bonus, c'è chi aspetta il bonus occupazione. E allora, dicembre in Europa a livello record, la disoccupazione al 10%, lo stesso livello di novembre, e ancora siamo al livello più alto quanto a disoccupazione dall'agosto del 1998. Nell'area euro la quota dei giovani tra i 15 e i 24 anni che non ha ancora un lavoro è al 20%. Avete ragione, non me l'ha fatto notare nessuno in studio, ovviamente, ma le sterline valgono più dei dollari, quindi io abbassavo il livello di conversione del cambio, ma in realtà mi riferisco ai bonus di Diamond, che sono 3,4 milioni di sterline, cioè quasi 4 milioni di euro, e il bonus del numero di Bank of Scotland, Hester, sono 4 milioni in quel caso di dollari. Ecco perché abbiamo fatto un po' di confusione, alcune volte vengono dati in dollari, altre in sterline. Comunque chiedo Venia, numero uno uscente di HSBC. Gyokeren invece a 4,3 milioni di sterline, quindi siamo quasi a 5 milioni di euro. Difficile fare la conversione in diretta euro, dollari, sterline. Abbiate un po' di pietà ogni tanto, comunque andiamo avanti. Se con la demagogia si facesse funzionare l'economia sareste il motore dell'Italia. No, vabbè, ci spieghi lei, perché lei scrive ogni tanto, spesso, perché è demagogico dire che è strano dare un bonus a un banchiere di una banca nazionalizzata come Royal Bank of Scotland, pagata dai cittadini britannici perché non fallisse, nel giorno in cui scopriamo che in Europa la disoccupazione è il livello più alto in tutta Europa dal 1998. Demagogia. Cosa di paglia? Il dato sulla disoccupazione è buono però in Germania, come dicevamo, perché il calo dei disoccupati in Germania è fortissimo ed è sceso dal 7, praticamente il tasso di disoccupazione è sceso dal 7,5 al 7,4%, ma il calo, ossia i disoccupati sono diminuiti di 13.000 unità a gennaio ed è ai minimi da 18 anni. Purtroppo non è così in Italia, i disoccupati giovani siamo ai massimi dal 2004 al 29% in Italia. La disoccupazione è stabile all'8,6%. Ancora due o tre dati sul fisco e poi passiamo al primo tema. Le dichiarazioni IRES, ossia delle società, il 35% delle società nel 2009, le dichiarazioni IRES 2009 sono riferite chiaramente al 2008, erano in perdita. Ora 2008 è un anno pesante nella parte finale, ma forse un po' alto il dato. 35% in perdita alle società di capitali, solo il 60% in attivo. Delle grandi imprese, che sono lo 0,8%, arriva il 52% di tutta l'IRES versata al fisco. E ancora c'è stato complessivamente un effetto calo tasse dalle imprese, perché è calato di circa il 18% il gettito complessivo dell'imposta pagata dalle imprese. Lì c'entra anche la crisi, ma noi dal 2008, i dati infatti IRES 2009 si sono riferiti al 2008, passiamo al 2010 e soprattutto al 2011. Molto se ne è discusso tra le nevi di Davos, mentre l'Egitto scendeva in piazza, un po' spiazzati i banchieri, i politici, gli industriali lì presenti, ma insomma abbiamo visto qualche risultato, non è vero che si va a Davos solo per esserci, qualche risultato che devo dire questa volta è arrivato anche e soprattutto dal mondo politico. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, arriviamo adesso alla disoccupazione tra un po'. Devo dire che io non capisco alcuni ascoltatori. Cosa c'entra dire che è da cialtroni di sinistra parlare della disoccupazione giovanile? Perché non date anche la disoccupazione dai 10 ai 15 anni? Ma insomma, ragazzi, uno può mettere la testa sotto la sabbia e lì assomiglia allo struzzo. Ma il dato è un dato statistico europeo. Si prende la disoccupazione giovanile che va dai 15 ai 24 anni come dato europeo. E quella è la fascia europea e si va a vedere quello che è il dato a livello europeo. In Europa la disoccupazione è al 20% tra i 15 e i 24 anni, in Italia è al 24%. Ok? Se non piacciono i numeri, cambiateli. Invece noi parliamo non di numeri ma di analisi, perché ripeto, a noi è sembrato che comunque, ma al di là di tutta la kermesse anche un po' mediatica, molto glamour di Davos, qualche risultato si sia ottenuto. Nel caso specifico avevamo appuntato in questi giorni, poi il federalismo e l'Egitto ci hanno sconvolto la scaletta, insomma la posizione di Nicolas Sarkozy, che vuole evitare squilibri commerciali e tensioni valutarie, la posizione di Angela Merkel, quindi numero uno tedesco, che ha detto l'euro va difeso ad ogni costo, la posizione di Timothy Geithner, il segretario al tesoro americano, che ha detto il debito americano in questo modo non si può sostenere, e poi il rigore della Banca Centrale Europea. Chiediamo conferma a chi era dentro i vari tavoli di lavoro, sia l'economista tedesco, ma che è direttore del Centro per gli Studi di Politica Europea, Centre for European Policy Studies, l'ho letto metà in inglese, metà in francese, ho fatto un capolavoro, che sta a Bruxelles. Daniel Gross, buonasera. Buonasera a te. E lei parla anche in italiano, per cui aumentiamo il bilinguismo. Allora, abbiamo avuto una sensazione un po' troppo ottimistica, sarà perché non c'eravamo, oppure questa volta qualche dichiarazione, soprattutto politica, forte, di garanzie ai mercati è arrivata proprio dalle Alpi svizzere? Sì, garanzie molto vaghe, molto politiche sono state pronunciate sia da Angela Merkel che da Sarkozy, ma penso la frase centrale del discorso di Merkel era la seguente: non abbiamo una crisi dell'euro, abbiamo una crisi del debito, e su questo fronte io non vedo nessun progresso, perché una crisi del debito o si risolve prendendo a carico il debito altrui o tagliando il debito, e per il momento nessuna delle due soluzioni sono all'orizzonte. Ecco, su questo la sento invece più scettica, poi lei c'era e noi no, quindi ha ragione lei, la sento un po' più perplesso rispetto a quello che noi abbiamo letto poi sui giornali, quindi le dichiarazioni le sono sembrate più politiche che altro, a noi è sembrato vedere insomma Angela Merkel che una volta per tutte definisce l'euro la valuta da difendere ad ogni costo, senza l'euro e senza la moneta unica viene meno l'Europa, cioè, mi sembra aver messo la parola fine, però mi dica lei, ha le polemiche sul ruolo della Germania, questo intendevo. Questo era una frase molto importante perché voleva fare luce sulla posizione della Germania all'interno dell'Europa. La Germania vuole un'Europa che funzioni, ma vuole anche un'Europa che funzioni con la stabilità economica. E si è visto nel passato che spesso gli altri erano d'accordo in linea generale, ma quando si trattava poi dei dettagli c'era molta resistenza. E di nuovo, questa volta si tratta di vedere se gli altri sono d'accordo, se i tedeschi per esempio propongono delle regole unitarie per la pensione a 67 anni, o se propongono altre misure sulla durata della settimana lavorativa. E lì non si tratta più di difendere l'euro in termini generali, ma di accettare delle misure abbastanza vincolanti. Ecco, su questo l'altro aspetto che abbiamo osservato da Davos ha riguardato invece il ruolo dei banchieri, visto che adesso commentavamo il fatto che Wall Street Journal oggi ricordi come stanno partendo tutti i bonus, ripartendo i bonus ai banchieri britannici, abbiamo visto anche dei banchieri da Davos, uomini d'affari, dire ma insomma non dateci troppe regole, attenzione, soffocate la finanza, stanno rialzando la testa dopo che erano venuti diciamo quasi sotto mentite spoglie in questi due anni, quasi nascondendosi, i grandi guru di Wall Street? Un po' si vede questo effetto, perché si sentono di nuovo al sicuro. Grazie. Ma un altro capitano delle banche ha detto una frase molto più, come dire, interessante. Ha detto: noi banchieri dovremmo essere riconoscenti alla classe politica perché ci ha salvato la pelle. Perché qualcuno gli ha chiesto: ah, e questo riconoscimento in che modo lo esprimete? Tagliando i bonus? E lui non ha potuto rispondere. I banchieri sanno che sopravvivono solamente grazie alla politica, ma ognuno per sé fa quello che può per aumentare il suo. Ecco, torniamo ai temi di politica economica, perché noi ci aspettavamo forse anche un'esaltazione maggiore della Cina e dell'India, i mercati che stanno sbancando, però in realtà anche qui abbiamo visto forse per scelta dei paesi emergenti, Brasile, Cina e India, ma non solo, tenere un profilo abbastanza basso. Ripeto, noi eravamo qui, vorremmo avere conferma da lei. Penso che per la Cina sia una scelta politica. Loro sanno che non ne hanno bisogno di avere un profilo alto, tanto i fatti danno ragione quasi ogni giorno, e poi per la Cina il riconoscimento del resto del mondo non conta molto. Dopotutto loro sono l'impero del medio, del centro, il resto del mondo gravita intorno a loro e non viceversa. Mentre l'India dà l'impressione di essere partita sì, ma di cercare anche il riconoscimento del resto del mondo, che questo stia avvenendo e che regna di nuovo una potenza con la quale si deve fare i conti. Un'ultima domanda riguarda un tema che poi tratteremo, dottor Gross, e mi riferisco all'Egitto. Noi ci occuperemo chiaramente delle imprese italiane lì presenti, di quello che sta succedendo ai rapporti commerciali. Ma insomma, è sembrato un po' quasi paradossale, quasi a livello di paradigma, vedere che a Davos si riunivano i ricchi, ricchissimi, potentissimi del mondo e sempre in Europa, ma nella parte sud del Mediterraneo, scoppiava di tutto, ossia prima la Tunisia e poi soprattutto l'Egitto. Al di là di un po' di preoccupazione sulla rivolta e l'assalto ai forni di manzoniana memoria, c'è stata veramente una presa di coscienza su quello che sta capitando nel Mediterraneo oppure no? No, il Mediterraneo è molto lontano dalla Svizzera, gente, certo. Che si riunisce a Davos. Loro sono l'elite, come dire, quasi rinascimentale, che vogliono migliorare il mondo, cambiare i sistemi esistenti, mentre i regimi autoritari in quella parte del mondo vogliono solamente una cosa, mantenere il loro potere. Sì, l'elite rinascimentale di Davos è quella che non aveva previsto la crisi neanche l'anno che poi si è verificata, Daniel Gross lo sa meglio di me. Cioè a ma non è una elite che come dire... A gennaio 2008 erano lì a raccontarci di India quanto è bella e poi a ottobre 2008 è venuto giù tutto. No, lo dico perché se il Rinascimento fosse stato fatto con quell'elite saremmo ancora al tardo medioevo. Comunque, prego. Naturalmente fanno anche i loro interessi, ma quando si riuniscono a voi sono pronti anche a discutere di altri temi e alcuni fanno molto, tipo Gates con la sua fondazione e altri, ma che hanno degli interessi da difendere, interessi molto forti, questo è chiaro, ma lo fanno in un contesto abbastanza aperto, ma la crisi non l'aveva prevista quasi nessuno, e non direi che il meeting di Davos è fatto per prevedere le crisi, ma piuttosto per scambiare un po' degli argomenti quando i problemi sono più evidenti. Ecco, un'ultima domanda invece è rivolta a lei in maniera personale, non come nostro diciamo particolare speciale inviato a Davos. L'idea che lei si è fatto è che le prossime sfide, in questo caso mi riferisco all'Europa, riguarderanno il fronte valutario, cioè il rapporto euro-dollaro e quindi anche dollaro-yuan, oppure il fronte delle materie prime, o peggio ancora, anche se a mio avviso si è più allontanato, il tema dei debiti sovrani di alcuni paesi europei? Per l'Europa il problema che veramente preme è il debito sovrano. Sul fronte valutario si parla molto, ma secondo me si farà pochissimo. Per le materie prime c'è un mercato, c'è molta domanda, i prezzi aumentano, ma c'è poco da fare, molte chiacchiere. Ma lì dove la politica deve veramente agire, sì, adesso sul debito sovrano. Il debito sovrano. Grazie al nostro inviato speciale a Davos, ossia l'economista Daniel Gross, che appunto da Bruxelles dirige il Centro Europeo per gli Studi Politici. Grazie. Buona serata. E a Davos ci sono anche i colleghi del Sole 24 Ore e dell'agenzia di stampa Radio Core Sole 24 Ore. Nel caso specifico Giuliano Licini ha raggiunto a margine del World Economic Forum altri manager, non quindi studiosi come Daniel Gross, ma manager. Il primo che vi facciamo ascoltare è Mario Greco, che è numero uno di General Insurance di Zurich Financial Service, che è il numero uno mondiale del settore danni del colosso elvetico, sempre sull'immagine in questo caso dell'Italia all'estero. Sentiamo. L'immagine che c'è all'estero dell'Italia è di un paese fermo e che non è facile da leggere, non capiscono che cosa sta succedendo in Italia. I grandi trend che si vedono all'estero, quello dell'educazione, quindi della riqualificazione del personale, di trasformazione dei settori industriali, di efficientamento delle strutture amministrative pubbliche, in Italia non si vedono, non sono percepiti, non c'è percezione all'estero che esistano. L'altra cosa molto, molto delicata e per la quale credo che tutti dovremmo preoccuparci è l'interesse a venire ad investire in Italia, che non dipende solo dalle cose dette prima, ma dipende anche dalla stabilità del sistema giudiziario, del sistema politico e del sistema sociale. E queste tre cose in Italia sono degradate progressivamente negli ultimi anni e rendono gli investimenti in Italia ancora più improbabili di quanto potrebbero altrimenti essere. Danneggia la perdita di competitività e la perdita di credibilità del paese, che non sembra impegnato in un miglioramento progressivo di se stesso, ma sembra involuto e sembra impegnato solo a parlare di se stesso. Il debito in realtà in Italia non è un grosso problema, il debito è sufficientemente sotto controllo. Forse di tutti gli aspetti del paese, quello del debito in questo momento è quello che meno viene citato all'estero. Credo che sia apprezzato come l'Italia ha gestito dal punto di vista finanziario la crisi, ma è la trasformazione industriale del paese che è mancata, l'efficientamento della pubblica amministrazione, il miglioramento del sistema giudiziario, le condizioni per cui in un paese diventa possibile e interessante investire, perché si vede un trend di lungo periodo che farà crescere questo paese. È andata anche bene, va là, perché l'efficientamento della pubblica amministrazione, giustamente la giustizia, nel caso specifico quella civile, l'investimento nella riqualificazione, nella formazione, un paese che pensa e parla solo di se stesso. Poteva andare peggio quanto immagine complessiva del paese, e ascoltiamo però anche il giudizio di un altro italiano che lavora all'estero, ossia Davide Serra, fondatore di Algebris Investment, una società che è specializzata in investimenti alternativi, sempre intervistato dalla collega di Radio Corriere Sole 24 Ore, Giuliana Licini. L'Italia ha, da un lato, imprenditoria validissima al nord, due, ha un sistema per cui c'è un alto livello di debito pubblico, ma alto livello di risparmio e quindi di ricchezza accumulata all'interno delle famiglie e settore privato. Per cui il livello netto di debito del paese è inferiore, però il problema è che bisogna avere stabilità pubblica e politica, perché altrimenti i tassi di interesse sul debito pubblico iniziano a salire, che poi è una tassa indiretta ai cittadini. L'Italia viene vista sfortunatamente come un paese dove non investire, tutti vogliono andarci in vacanza, però pochi investono. E secondo me il problema è che, dato che siamo un paese che non ha crescita demografica alta, dove l'integrazione dell'immigrazione sino adesso è stata sicuramente, si può fare di meglio, alla fine si cresce per produttività, capitali o crescita demografica. Alla fine, secondo me, non si investe perché viene visto oggi globalmente, tutti i paesi in cui uno deve investire, l'Italia, non so nelle graduatorie ufficiali, però, come dire, non sarà sicuramente nei primi. Quindi la crescita dell'Italia viene da chi in Italia col cervello è in grado di creare ed esportare. C'è un livello di burocrazia statale, complessità legislativa, complessità fiscale, che un sacco di altri paesi cercano di competere offrendo una situazione di infrastrutture e di appoggio strutturale vincente. Allora, queste alcune opinioni raccolte sull'Italia e in primo luogo anche su quello che è emerso da Voss, piaccia o non piaccia, è così. Mi stavo preoccupando, è arrivato invece anche Fabio a chiedere anche oggi le mie dimissioni, no? Perché sennò temevo ci fosse successo qualcosa e veramente mi preoccupo. Adesso il meteo, il traffico, poi commentiamo la borsa che è chiuso bene, più 2,15%, Milano la migliore oggi in Europa, grazie soprattutto a Deni e agli energetici. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa e poi degli altri temi di questa giornata, quindi trasporto, dati auto ed Egitto. Questa volta, visto che la situazione si sta un po' tranquillizzando in maniera non cinica per quello che riguarda il rapporto con le imprese italiane, e anche noi siamo il primo partner europeo dell'Egitto, e attenzione, un grosso attivo di nella bilancia commerciale rappresenta per noi l'Egitto. E dicevo, un tema che non potevamo affrontare perché non siamo così cinici nel momento degli scontri e dei morti. Mi sembra che la situazione stia lentamente rientrando, ma avremo aggiornamenti. Una chiosa però la devo fare sul tema dei bonus ai bancari. Mi riferisco a quanto raccontavamo prima sulle banche britanniche, spesso salvate dallo Stato, e di nuovo ripartono i bonus milionari. Scrive un ascoltatore: immorali bonus ai banchieri, non sono i bancari, magari fossero i bonus ai bancari, sono i bonus ai banchieri. Per me sono più immorali 54 milioni per un calciatore. Sì, non è che mi faccia impazzire sapere che un calciatore viene pagato così tanto, il punto è un altro, che se quella squadra di calcio lei potrebbe avere ragione se quella squadra di calcio fosse stata salvata dallo Stato e nel frattempo se avessero licenziato altri calciatori e poi arriva uno che si piglia 54 milioni, ma siccome così non è, l'esempio mi sembra un po' forzato e un po' a difesa di chi questi bonus li prende. La borsa. Benissimo oggi Milano, lo dico perché sono positive tutte le borse europee, ma Milano in particolar modo, più 2,15%, Parigi più 1,70%, Francoforte più 1,5%, Londra più 1,5%, l'America guadagna lo 0,80%, questa mattina non è arrivata una grossa ondata dal Giappone, più 0,36%, e anche Hong Kong più 0,15%, quindi è proprio una crescita europea. Da noi si chiama Buzzi Unicem più 5,20% e soprattutto Eni, dico soprattutto perché Buzzi Unicem è già più spiegabile, adesso vi arriviamo, più 4,10% Eni, Azimut più 4% come Saipem, anch'essa controllata Eni, A2A più 3,90%, Generali più 3,40%, Mediolanum più 2,80%, Telecom più 2,70% come Campari e Autogrill, il 2,40% lo guadagna Intesa San Paolo, il 2,30% Snam, Rete Gas e anche Tozzi, il 2,2% Enel, quanto a rialzi, il 2,1% Exor, il 2% Mediobanca, l'1,80% invece è Fiat. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, buonasera Eleonora, il Eni, il perché di questo rialzo? Eni è andata bene insieme a tutto il settore petrolifero europeo, il sottoindice Stock 600 ha fatto un progresso del 2,8%, il migliore appunto del vecchio continente, ovviamente sospinto in alto dall'andamento del prezzo del greggio che quest'oggi, con il Brent che quest'oggi si è confermato sopra i $100 al barile, quindi appunto questo ha favorito gli ordini in acquisto su tutti i titoli petroliferi, in Italia su Eni ma anche sulla controllata Saipem che ha mostrato un progresso del 3,9%. Ancora, sì, di Saipem abbiamo detto, A2A tu ricordavi, Buzzi Unicem invece, ieri in calo, ma insomma c'erano dei timori soprattutto sui talcementi, a chi ci scrive sull'Egitto era i talcementi che con Saman Suez, se non ricordo male, aveva dovuto bloccare anche l'impianto in Egitto. Eleonora. Sì, infatti Buzzi non è esposta in esatto. Egitto, ieri aveva sofferto insieme a tutto il settore delle costruzioni europee, aveva perso l'1,5%, quest'oggi è tutto il comparto delle costruzioni in Europa che è andato su e le Buzzi appunto si sono messe particolarmente in evidenza, ma oggi tra l'altro hanno recuperato terreno in modo esorbitante anche i talcementi che hanno fatto addirittura un più 6,11%, quindi hanno recuperato più di quanto perso ieri e nonostante che in questo caso effettivamente la società realizzi oltre il 15% del fatturato in Egitto, si vede che la borsa guarda già avanti e guarda avanti con ottimismo. Importante questo, ieri infatti c'era stato un calo, ma hai fatto bene a far notare che i talcementi oggi recupera più del calo di ieri. Gli altri titoli, tra cui anche chi invece ha perso oggi, devo dire qualche bancario come il Monte dei Paschi di Siena, meno 1,61%, di nuovo voci sull'aumento di capitale, Leonora? Esatto, voci che sono state scatenate diciamo dalle dichiarazioni rilasciate ieri da Gabriello Mancini, ovvero il presidente della fondazione MPS, che ha mostrato apertura a un eventuale aumento di capitale della banca. Finalizzato al rimborso dei Tremonti Bond anticipato, quindi entro il 2012. Ricordiamo che Banca MPS ha preso 1,9 miliardi di Tremonti Bond. Sì, non li ha presi a Tremonti, però a noi risulta da fonti che non possiamo citare che in realtà Monte dei Paschi ha già contattato alcuni fondi per sapere se volevano partecipare all'aumento di capitale. Però appunto, questo è un pur parlé, vedremo l'annuncio ufficiale. Intanto il traffico 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, di nuovo in diretta per parlare di borsa. Chiudiamo, dopo aver parlato del settore petrolifero, oggi la star assieme al settore cemento e comparto costruzione del Monte dei Paschi. Ho detto, abbiamo avuto notizie di contatti, questo si può dire, non dico chi sta scrivendo, poi vedremo se farà l'aumento di capitale. Mi sembra che le voci diventino sempre più insistenti. Fiat, visto che tra poco escono i dati auto, Eleonora, Fiat. Sì, Fiat ha fatto bene, più 1,8%, Fiat Spa, ma ha fatto bene anche Fiat Industrial, più 1,16%. I due titoli hanno sospinto in alto le Exor, che così hanno messo a punto un progresso del 2,13%. Ancora Telecom Italia, adesso tra chi è calato oltre Monte dei Paschi segnalo anche Banco Popolare, meno 0,70%, e Finmeccanica. Volete sapere di Unicredit, più 1,1%. Mediaset più 1%, Pirelli più 0,90%, Parmalat più 0,60% e Luxottica pure. Dicevo Telecom oggi più 2,70%. Si sono riaccesi i riflettori sulla compagnia di TLC, quest'oggi i vertici della società, in particolare l'amministratore delegato Franco Bernabera a Venezia per inaugurare la fibra anche appunto nella città della Laguna, e soprattutto ha detto che di avere in ballo diversi dossier, anche se non ha specificato bene quali. Ieri ricordiamo invece che la società ha venduto la partecipazione nell'azienda cubana Itexa per oltre 700 milioni di dollari. Allora, questo per quello che riguarda Telecom Italia, migliori e peggiori, Leonora. Che fa Yorkville? Sì, Yorkville è emersa... No, prego, più 15,70%, Mondo Home Entertainment più 15%, Stefanelli più 10,50%, sto leggendo i migliori, Poltrona Frau più 10,20%, Elica più 10,14%, Icon più 9,87%, Aeroporto di Firenze più 9,60%, B-Team più 8,82%, con massimo rispetto, ma ero solo curioso, non voglio metterti in difficoltà. Comunque Yorkville, ci sono delle novità, nel senso che è stato rinviato al prossimo 29 aprile, quindi c'è un po' di respiro, dal Tribunale di Milano l'udienza nella quale si doveva discutere, che invece era prevista oggi, sul ricorso promosso dalla Consob in relazione a gravi irregolarità che erano state poste in essere dal collegio sindacale. Quindi evidentemente la borsa ha festeggiato questo rinvio. Per quanto riguarda invece Mondo Home è assolutamente incomprensibile, del resto nei giorni scorsi anche era stato chiesto dalla Consob alla società se potesse giustificare questo rialzo, non tanto di oggi, del 15% di oggi, ma addirittura del 265% nel mese di gennaio, a cui si aggiunge appunto il 15% di oggi. La società... 260, hai fatto bene a ricordare, 265% nel mese di gennaio. Esatto, la società ha ricordato solo di aver siglato tre importanti contratti, uno con la Rai, due con la RT di Mediaset, ma di non sapere appunto specificare il progresso, se non per il fatto al limite che proprio nei giorni scorsi è emerso che una controllata di investimenti e sviluppo, anch'essa quotata, ha rilevato una quota molto importante dell'11,5% nel capitale. Sì, con un flottante molto basso, quindi lì i giochi li stanno facendo in pochi. A mio avviso i peggiori invece, Valsoia più meno 2,90, scusate, Sadi Servizi Industriali meno 5,40, Benetton Group, forse anche la richiesta del fisco pesa, meno 2,6%, 2.600.000 euro chiesti ai Benetton, Kersef meno 2,6 anch'esso, Unione Alberghi Italiani meno 2,6, ERG meno 2%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. E noi cambiamo invece radicalmente tema. C'è chi dice: mi dia un titolo giusto così divento ricco. Sì, aspetti, nella seconda ora del programma, anche nella terza. Invece noi cambiamo tema e ci occupiamo di trasporti e di competitività, perché si è tenuta oggi l'assemblea annuale della Confederazione Generale dei Trasporti e della Logistica. Che si parla infrastrutture logistica, sentiamo che cosa è emerso. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, sapete quanto costa, secondo il presidente della Confedra, Fausto Forti, ci mancherebbe, il gap della logistica e della competitività infrastrutturale al paese? Beh, insomma, costa 12 miliardi di euro. Tra l'altro, Fausto Forti ha ricordato che la logistica italiana vale il 7% del PIL come fatturata, non è poco, sono 100 miliardi di euro, che è anche superiore al fatturato che riesce a esprimere la logistica italiana alla media europea, che è del 6,8%. Sentiamolo al microfono la nostra Alessandra Schepisi, che gli ha chiesto in primo luogo un commento al rapporto del settore e del presidente della logistica diffuso oggi. Innanzitutto si conferma il grande ruolo della logistica nel panorama economico italiano, perché tutto sommato rappresenta oltre il 7% del prodotto interno lordo, quindi come settore già di per sé rappresenta una importante realtà. Inoltre è un fattore determinante per la competitività delle aziende del nostro paese, soprattutto in un momento in cui i flussi delle merci si spostano dall'Europa verso o dall'Europa e dagli Stati Uniti, si spostano molto verso est, verso l'Asia, verso la Cina, l'India, con un panorama che cambia velocemente, dove l'importanza dei collegamenti, del buon funzionamento del flusso delle merci è determinante per far arrivare i nostri prodotti in tutto il mondo. Su quali settori bisognerebbe investire di più? All'interno del nostro settore sicuramente sulle aziende che svolgono un ruolo di partner logistico, quindi un insieme di attività che non è il puro trasporto, che già oggi vede una sovrabbondanza di aziende in quel settore, ma piuttosto quella degli integratori logistici, e puntando anche su una dimensione che sia un po' più grande di quella delle piccole e medie industrie, che è un po' la caratteristica del nostro paese. Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi qui presente, che cosa Confedra chiede? Noi abbiamo tre linee su cui indirizziamo la nostra azione, che sono quella della semplificazione degli adempimenti e della burocrazia, perché sempre di più le merci sono soggette a controlli e a burocrazie per varie ragioni, dalla sicurezza al made in Italy agli aspetti doganali. Quindi questo primo aspetto. Un secondo aspetto riguarda le infrastrutture vere e proprie, quindi concentrare gli sforzi su alcune infrastrutture prioritarie, tipo quelle dei TEN, il corridoio 5 piuttosto che il 26, quindi il 5 è quello che attraversa l'Italia del Nord da Torino a Trieste, il corridoio 26 è quello che collega Genova con Rotterdam. Queste sono sicuramente delle infrastrutture su cui bisogna puntare, che sono prioritarie per il nostro paese. Anche noi dobbiamo fare di qualcosa e migliorare la qualità dei servizi che offriamo, e quindi anche per quanto ci riguarda abbiamo un compitino da fare a casa. Allora, come già si sentiva dall'intervista di Alessandra Schepisi con appunto il presidente di Confedra, era presente oggi all'assemblea annuale il ministro Matteoli, ministro delle infrastrutture. Ha detto che insomma serve collaborazione, vabbè. Ma la cosa più interessante che vi facciamo ascoltare in chiusura è la dichiarazione di Matteoli sul ponte, sullo stretto di Messina. Nulla in contrario, o meglio, parecchie obiezioni, ma la cosa interessante è che il ponte costa, almeno come primo stima, 6 miliardi. Hanno già speso 420 milioni di progetti preliminari. Matteoli dice che il ponte comunque si farà. Il ponte sullo stretto nei prossimi giorni, i lavori a terra sono iniziati, nei prossimi giorni presenteremo in Calabria e in Sicilia il progetto definitivo. Accanto a questi interventi infrastrutturali e strutturali disporremo sempre nel 2020 di una fiscalità comunitaria e regionale completamente diversa dall'attuale, in una reale liberalizzazione dell'offerta ferroviaria e di un rilancio del sistema cargo. Vabbè, io non ci credo, con buona pace di tutti i tifosi del ponte, 6 miliardi non ci sono in cassa, sono mezza manovra finanziaria, può essere che mi sbagli, ci mancherebbe. Torniamo a parlare dei dati auto, della disoccupazione italiana e dell'Egitto dopo il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia. Allora, I dati auto, come ogni mese, per quello che riguarda le immatricolazioni in Italia, sono appena usciti. Allora li commentiamo praticamente in diretta. Il totale del mese di gennaio è un'altra batosta, mi sembra, meno 20,7% su gennaio 2010. Il gruppo Fiat perde più della media di mercato, meno 34%. Nel caso specifico Alfa Romeo guadagna il 28%, Fiat invece perde il 34% come marchio, scusate, non come gruppo, e ancora Lancia perde il 21%. Segni positivi invece per altri titoli, per altri produttori, non Toyota che cala del 9% e non Volkswagen che cala del 4%, bene invece alcuni marchi tipo Mercedes in crescita e bene anche BMW più 5-20%. Evidentemente la crisi non c'è per tutti. Siamo in collegamento con il professor Malagodi. Buonasera. Buonasera Barisoni. Allora, ho ben capito, insomma, Fiat fa meno 34%, Alfa Romeo più 28%, come mai? Beh, il dato Fiat era atteso, io stesso in un'analisi che è stata pubblicata sul Sole di sabato, prevedevo che Fiat non arrivasse al 30, ritenendo che il 29 fosse un loro livello ottenibile. Difatti loro sono arrivati al 29,2, l'anno scorso avevano il 32,1, significa 3 punti quasi di calo sullo share assoluto del mese, che pure è bassissimo. Alfa va bene perché loro hanno un nuovo Giulietta, e quindi quando Alfa riesce a traguardare come questo mese un 4% rispetto al 2,5% che aveva l'anno scorso, è Alfa che dà un po' di linfa a un gruppo che con la marca Fiat perde oltre 4 punti di quota, perché è tutta la produzione generalista di un marchio come Fiat che subisce l'attacco di Golf con la Polo, subisce l'attacco di tutte le altre marche e resiste solo con la 500, ma la 500 ha gli onesti e buoni volumi che ha, mentre anche Panda tende a flettere. È una situazione sulla quale io ritengo, abbiamo già parlato abbastanza, e il gruppo Fiat che non ha sufficiente capacità di contrastare chi come Volkswagen addirittura fa quasi l'8% di quota, 7,9, e aumenta dell'1%, in assoluto la quota di share, avendo una diminuzione, come prima si diceva, di un solo 5% rispetto al 21%. Poi abbiamo questo fenomeno che la domanda in questo periodo di crisi dei generalisti, salvo Volkswagen, salvo qualche altro gruppo, quali i coreani Hyundai e Kia, si sposta sulle marche premium con BMW, che ha un aumento di quota che va dall'1,8 al 2,4, Mercedes anch'essa dall'1,95 al 2,55, Audi che sfiora il 4% del mercato italiano grazie all'apporto della 1. Se aggiungiamo a questo aumento dei generalisti anche l'aumento di Alfa, che è un dei non generalisti, l'aumento di Alfa che è un brand premium, abbiamo che aumenta il peso dei brand premium per oltre il 4% di share sul mercato italiano. Mi scusi, cos'è un brand premium? I brand premium sono quelli nei quali un utente, se vuole, spende dai 20-25 mila in su, cioè quelle marche distintive che hanno alcuni nomi altisonanti, BMW, Mercedes, sì. Audi, a cui aggiungiamo anche Alfa, che con la Giulietta è un prodotto distintivo rispetto ad altri prodotti. Mi scusi, ma questo cosa vuol dire? Che è tornata la divaricazione tra chi ha e chi non ha, cioè chi ha di più e chi non ha di meno, nel senso che non capisco, calano le utilitarie, perché io ho dato i dati sul gruppo, sul marchio Fiat, però devo dire che non è che altri, Peugeot fa meno 35%, Renault fa meno 43%, cioè tutti, Mazda meno 28%, dunque Citroën meno 26%, cioè tutti i marchi, diciamo, più abbordabili che fanno utilitarie calano, allora mentre vanno bene, appunto, come lei ricordava, oltre che l'Alfa con un modello abbastanza caro, anche BMW e Mercedes. Certo, ma tra i generalisti, ripeto, c'è questa caratteristica di Volkswagen che non ha soltanto la Golf, ha anche la Polo, anche la Passat, a modelli di un certo livello. Beh sì, nel momento nel quale il mercato, diciamo così, delle classi più popolari non ha il sostegno di nessun tipo di incentivi, né sul GPL né sul metano, e Fiat ne soffre particolarmente di queste due categorie, Abbiamo la dimensione di coloro, aziende o comunque persone del livello medio-alto di spesa, che continuano ad alimentare una domanda che con l'uscita di modelli estremamente attraenti e di alta qualità, perché sono soprattutto le case quali BMW, Mercedes, Audi che stanno spingendo su nuovi modelli che affrontano il mercato con innovazione e contenuti di prodotto attraenti, riescono a attirare clientele e quindi c'è una segmentazione per la quale la base della piramide diventa sempre più larga e la cuspide si innalza sempre di più nell'attuale situazione di mercato auto. Grazie, grazie anche al professor Paolo Malagodi. Ripeto, docce fredde per le immatricolazioni anche per Fiat e per Lancia, ma devo dire per tutti i marchi molto, molto popolari. Dopodiché abbiamo sempre detto durante la vicenda Mirafiori che un conto è ragionare dei nuovi modelli contrattuali, cosa importantissima, e a nostro avviso Marchione aveva ragione nel contesto in cui opera Fiat, nella concorrenza della Fiat, se si vogliono mantenere gli stabilimenti in Italia. Dopodiché, chiuso la vertenza con i modelli contrattuali con la FIOM, adesso facessero anche i modelli e basta, non quelli contrattuali, modelli auto. Grazie Paolo Malagodi. Buonasera. E dal mercato dell'auto al mercato del lavoro, perché mi dispiace per chi pensa che noi facciamo il gioco degli sfattisti, ma i dati sono europei, la disoccupazione a dicembre ha chiuso su livelli record in Europa al 10%, i disoccupati europei sono a livello più alto dal 1998. Se si eccetto la Germania, dove il dato è in netta controtendenza, cioè c'è un forte calo di disoccupati in Germania, il tasso di disoccupazione, pensate, in Germania è sceso ai minimi da 18 anni e siamo al 7,4% con un calo appunto di disoccupati di 13.000 unità in una botta sola. Dicevo, al di là della Germania tutto il resto non va bene. In Italia resta all'8,6% la disoccupazione, sapete che la Banca d'Italia non contempla. La Banca d'Italia invece in questo dato inserisce anche la cassa integrazione, cosa che non fa l'Istat, e allora la Banca d'Italia dice che la disoccupazione in realtà è all'11%, però insomma noi usiamo il dato Istat e resta invece ai massimi, anzi va ai massimi dal 2004 la disoccupazione giovanile, tra i 15 e i 24 anni il 29% dei giovani risultano disoccupati. Dopo il traffico, la scheda e alcune reazioni, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo, i dati di oggi sulla disoccupazione in Europa e in Italia, bene in Germania, male in Europa e anche in Italia la disoccupazione giovanile. La disoccupazione giovanile in Europa è al 20%, in Italia al 29%, tutto in questa scheda. Finisce come era cominciato, ossia male, il 2010 dell'occupazione europea. Nell'area euro la percentuale di disoccupati è rimasta inchiodata al 10%, livello più alto dal 1998. Il dato medio nasconde ovviamente situazioni molto diverse. La situazione è particolarmente grave in Spagna, dove i senza lavoro superano il 20%. All'opposto, in Olanda o Austria, siamo vicini ai tassi fisiologici, con una disoccupazione rispettivamente al 4% e al 5%. Continua a migliorare la situazione del mercato del lavoro in Germania, dove la disoccupazione è scesa al 7,4% e il numero di persone senza un'occupazione risulta il più basso dal 1998. Leggermente migliori della media anche i dati di Francia, 9,7%, e ancor di più Italia. Nel nostro paese la disoccupazione è rimasta infatti stabile in dicembre all'8,6%. Resta tuttavia drammatica la situazione dei più giovani. Nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni, i senza lavoro sono ben il 29%, in leggero aumento rispetto al mese precedente e con punte che si avvicinano al 40% per le ragazze che abitano nelle regioni del Mezzogiorno. È un una ben magra consolazione sapere che il problema della disoccupazione giovanile accomuna gran parte dei paesi europei. Nell'intera zona euro, i senza lavoro al di sotto dei 25 anni sono il 20% del totale, in Spagna si arriva al 39,5%, in Francia al 23%. Spiccano ancora in positivo Olanda e Austria con tassi intorno al 9%. Tornando nel nostro paese, l'Istat concede qualche spazio all'ottimismo, rilevando come le condizioni generali del mercato del lavoro appaiano un po' più serene. Da autunno l'occupazione ha smesso di scendere e la disoccupazione nell'ultimo bimestre, novembre e dicembre, ha preso a calare. Questi dati, allora, due reazioni che abbiamo raccolto grazie alla collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Chiara Di Cristoforo. Due reazioni che, come capirete, sono molto diverse: una è quella del ministro al lavoro Maurizio Sacconi, l'altra è quella dell'ex ministro e attualmente capogruppo PD in commissione lavoro della Camera, Cesare Damiano. Iniziamo con Sacconi. Sono dati mensili che confermano la stabilità del nostro mercato del lavoro, quindi si è fermata la discesa dell'occupazione, anzi c'è un leggero recupero, ci sono 11.000 disoccupati in meno rispetto al mese precedente. Purtroppo la ripresa, essendo selettiva, si traduce in un aumento delle ore lavorate, ma non ancora in una crescita dei posti di lavoro né qui né nel complesso dei paesi europei di vecchia industrializzazione, tanto che il nostro tasso di disoccupazione all'8,6 si confronta sempre con una disoccupazione media europea al 10%. Le politiche necessarie sono quelle rivolte soprattutto a investire nelle competenze delle persone, oltre agli ammortizzatori sociali che rimangono disponibili per proteggere il reddito nella condizione di inattività. E per quanto riguarda i giovani, abbiamo deciso che lo strumento principe deve essere il contratto di apprendistato, che viene anche incentivato per alcune specifiche categorie, soprattutto dei più giovani e nei lavori tradizionali dell'artigianato. Così appunto il ministro Maurizio Sacconi, fronte opposto per l'ex ministro e capogruppo PD, e reazione opposta Cesare Damiano, sempre intervistato dalla collega Chiara Di Cristoforo. Questo è un dato inquietante, perché siamo arrivati al 29% ed è in crescita, come cresce il disagio dei giovani di fronte alla mancanza di lavoro, alla perdita del lavoro, alla precarietà del lavoro. Mi pare che il governo parli molto, ma faccia poco. La nostra base non è per commentare il dato sulla disoccupazione, anche se insomma purtroppo c'è poco da ridere, insomma, dopo la Spagna ci siamo noi sulla disoccupazione giovanile, ma è per parlare di Egitto, declassato anche da, oltre che da Fitch, da Moody's, da anche da Standard & Poor's, il debito egiziano oggi. Ma insomma, sono 8.500 gli italiani che vivono in Egitto, 500 le imprese italiane in Egitto, siamo il primo partner commerciale in Europa e terzo al mondo dopo Stati Uniti e Cina, 4 miliardi e 200 milioni di interscambio commerciale, che tra l'altro è il saldo commerciale è inattivo, quindi la differenza tra export e import è a vantaggio nostro, perché l'attivo è di 460 milioni di euro. Oggi già raccontavamo che transitano tranquillamente le navi nello stretto di Suez, nel canale di Suez, addirittura un traffico superiore alla media, il petrolio è tornato vicino ai 90 a New York, l'euro è 1,38. Il nostro Dario Ceccarelli ha chiesto a sostanzialmente il responsabile dell'ufficio dell'ICE al Cairo, l'ICE, l'Istituto per il Commercio con l'Estero, lui si chiama Giuseppe Federico, un bilancio sulle attività che si sono fermate e poi sono ripartite. Il caso più noto è quello di Italcementi attraverso Semen Suez. Sentiamo l'intervista. Mentre i dati dell'interscambio 2009 confermano totale per gli Stati Uniti di 6.1 miliardi di dollari, che sono il 7.9% del totale interscambio mondo dell'Egitto, bene, al secondo posto troviamo la Cina, che ha fatto salti da gigante, ma comunque è ferma a 4.9 miliardi di dollari, con una quota del 6.7%. Ecco, poi è significativa la posizione d'Italia, al terzo posto comunque con 4.2 miliardi, e una quota del 6.50. Le vorrei così evidenziare che la Germania è quarta, e i nostri altri concorrenti europei tipo Spagna, Francia e Regno Unito sono rispettivamente all'ottavo, nono e decimo posto. Se poi vede il dato più di dettaglio, ecco, l'Italia è il primo paese di esportazione egiziane. Stiamo attenti perché è molto importante l'export egiziano per il futuro e comunque il futuro economico del paese. Quindi loro ci vedono grandi partner nel loro sviluppo industriale. Altre interviste domani, perché il tempo a nostra disposizione si sta concludendo, così come il collegamento, tanto l'Egitto terrà banco anche domani, ma ripeto, la situazione sia sul fronte dei mercati petroliferi, dei mercati valutari e delle operazioni, delle attività in Egitto si sta per fortuna tranquillizzando. Non mi resta, siamo veramente in conclusione di programma, non mi resta, volete sapere di Wall Street, vi do Wall Street in questo momento, allora Wall Street resta più debole dell'Europa, più 1%, è migliorata però, molto buona la chiusura oggi a Milano, più 2,1%, la miglior borsa in Europa, con Buzzi Unice in più 5,17 ed Eni più 4,10%, dicevo non mi resta che chiedere a Giuseppe Cruciani la zanzara, la scaletta dettagliata della zanzara dei prossimi apposta insiste. Tu vecchio di testa, molto vecchio, non capisci che le scalette sono una cosa inutile. Infatti, meglio improvvisare. Esatto, io improvviso. Allora, che improvviserai a fa? Che improvviso sulle solite cose. Tu insisti nel chiedermi sempre le stesse cose, la scaletta, chi c'è, chi non c'è, qui è tutta una sorpresa per 2 ore e mezza, altrimenti non c'è gusto, non ci si diverte. Vieni qua, dimmi che è una sorpresa. No, parliamo di politica, come al solito, parliamo di tante cose, del possibile passaggio poi smentito di Barbareschi, anzi il ritorno al PDL, insomma altre cose che riguardano naturalmente il Ruby Gate, che domande inutili, basta, non ce la faccio più, non voglio più venire qua. Allora non verrai più, ed è l'ultima volta che Giuseppe Cruciani fa il collegamento dentro Focus Economia, da domani niente più collegamento in Focus Economia. Che bello. Grazie, sei salvo, e siamo salvi anche i nostri ascoltatori. Da domani noi torniamo alle 17 in poi. Adesso vi lascio la nostra programmazione tradizionale. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.